gran parola. La verità si sa, è una sola. Un cappio alla gola che stringe il mio collo. Ma sto ancora in piedi, barcollo e non mollo. Di giorno i problemi, la notte non dorme. Scrivo i miei pensieri su un cazzo di foglio. Se questa è la vita, non è ciò che voglio. Non ho un lavoro e non ho un soldo. Mi manca poco per toccare il fondo. Ci fanno credere di essere liberi, ma in realtà poi non lo siamo. Prigionieri di una gabbia senza sbarre, è per questo che noi non ci ribelliamo. Siamo schiavi di un sistema che ci cerca di distrarre. Protestiamo solo allo stadio, ciò che vediamo è tutta finzione. Siamo gli schiavi di questa nazione, ci tolgono tutto, anche la dignità. Voglio una cosa, la libertà. Ciò che vediamo è tutta finzione. Siamo gli schiavi di questa nazione, ci tolgono tutto, anche la dignità. Voglio una cosa, la libertà. Ho smesso d'essere libero quando ho chinato il capo. Ho smesso d'essere libero, merdoso non ho parlato. Ho smesso d'essere libero quando ho spirato. Ho smesso e poi ho ricominciato. Ho smesso d'essere libero quando ho chinato il capo. Ho smesso d'essere libero, merdoso non ho parlato. Ho smesso d'essere libero quando ho spirato. Ho smesso e poi ho ricominciato. Tra libertà e onestà non c'è differenza qua, nessuna delle due ci sta. L'esperienza mi ha formato, penso di avervi informato di quello che ho passato, sono uno sbandato. Il discorso qua cambia, ma resta la sostanza. Lo Stato mi ha ingabbiato, ho perso la speranza. E dicono che cambierà, non crederci fra. È una grande stronzata, stronzata. Se vuoi qualcosa non ti fermare, continua e corri, non farti acchiappare. Molti di noi in questa giungla non sopravvivono, mi state chiudendo anche se sto libero. Il concetto di pace è ciò che vorrei, chiedo i miei dei, io ogni legge l'abolirei. Sono scontroso con questo mondo sadico, fai come me, fai l'antipatico. Vado giù a Roma e scateno il panico. Non mi fido di questo stato chi, la mia generazione la metterà nel culo, sì. Ho smesso d'essere libero quando ho chinato il capo. Ho smesso d'essere libero, merdoso non ho parlato. Ho smesso d'essere libero quando ho spirato. Ho smesso e poi ho ricominciato. Ho smesso d'essere libero quando ho chinato il capo. Ho smesso d'essere libero, merdoso non ho parlato. Ho smesso d'essere libero quando ho spirato. Ho smesso e poi ho ricominciato. Voglio sentirmi libero come da piccolo quando correvo nei prati. Lasciato disadattati, tradito dai più fidati. Infranto dai cuori amati, amato cuori sbagliati. Liberi solo nei piani, perché a fatti siamo schiavizzati. I miei 16 anni passati per strada, al freddo, al cielo. Non a casa, non a caso, son cambiato, schiavo del pensiero nero. Vedo tutto quanto vero, piango se ci penso. Sangue scorre sempre più lento, non sono più libero da quel momento e mento. Spesso e sovente il giudizio della gente oscura la mente, ma raramente libero solo perché educato e critico. Fumo mistico, misto, mista, mastico, impasto, accendo il patto. Finalmente free, coi miei due fratelli al fianco. Salgo sul palco, giuro lo spacco. Finalmente free, coi fratelli al fianco. Salgo sul palco, giuro lo spacco. Finalmente free, coi fratelli al fianco. Ho smesso d'essere libero quando ho chinato il capo. Ho smesso d'essere libero, merdoso non ho parlato. Ho smesso d'essere libero quando ho spirato. Ho smesso e